fragilità. Il cuore non dimentica la sensibilità con cui ci si addomestica. Se vivi con amore, dal silenzio le parole, dalla roccia nasce il fiore della sensibilità. La sensibilità, un tono per toccare la realtà. Ci credo veramente, sì, che il mondo cambierà. La prima luce dell'aurora è sensibilità.